era stata la prima iniziativa che avevamo ritenuto di prendere in questo 2019. Il 7 gennaio avevamo presentato un ordine del giorno i cui contenuti erano sostanzialmente quelli espressi da ASGI in più articoli, uno ricordo di Nazarena Zorzella, l'avvocata Consoli del Foro di Firenze. Quelle argomentazioni c'erano nell'ordine del giorno, le avevamo ribadite e sostenute in commissione, non da soli ma in ottima compagnia. Il Comune, diciamo, stentava a convincersi. Poi c'è stata la pronuncia del 18 marzo, come sapete, a Firenze, e quella di Bologna è rilevante perché è un modo di suonare anche un campanello d'allarme, come dire, visto l'autorevolezza della giudice che l'ha pronunciata, potete continuare a negare l'iscrizione anagrafica, ma questo comporterà una serie di condanne per il Comune. Sembra che questo passaggio abbia convinto anche la maggioranza, che pareva restia, cioè che pareva restia, che lo era stata, a fare quel passo in più che avevamo chiesto dall'inizio, cioè adottare un'interpretazione plausibile, anzi adesso diciamo parrebbe obbligata, almeno per le pronunce che ci sono state finora, un'interpretazione costituzionalmente orientata del testo del decreto, senza invocare disobbedienze alla legge, che consentisse di superare quella interpretazione sbagliata secondo la quale il testo il decreto sicurezza avrebbe introdotto un divieto all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, il che non è possibile perché avrebbe contrastato con norme di rango superiore, ne avrà parlato Antonio Mumolo prima di me, innanzitutto gli articoli 2 e 10 della Costituzione, poi l'articolo 3 perché sarebbe trattato di un trattamento discriminatorio, e avrebbe anche costituito una trasgressione di una norma di settore ancora vigente, cioè l'articolo 6,7 del testo unico sull'immigrazione, che dice che iscrizioni e variazioni anagrafiche degli stranieri regolarmente soggiornanti vanno fatte alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Il Comune adesso sembra esserci, la maggioranza pure, lunedì prossimo approveremo questo ordine del giorno. Lo approverete quindi appunto con i voti anche del Comune, di PD, si è aggiunta anche Amelia Frascaroli di Città Comune, insomma una cosa... Dora Palumbo che lo ha sottoscritto. Perfetto, resta comunque un ODG a vostra firma, diciamo, che ha lo scopo anche di sostenere, diciamo, questa presa di posizione che Bologna dovrebbe assumersi a questo punto, in quella che comunque potrebbe essere, probabilmente sarà, l'apertura di un conflitto istituzionale con il Ministero dell'Interno. Questo senza ombra di dubbio, perché la stessa sentenza, nella parte in cui compensa le spese di lite, a riconoscere che questa compensazione delle spese deriva dal fatto che il sindaco si è uniformato ad una interpretazione della legge fornita dalla circolare ministeriale, che non è fonte del diritto e quindi non vincola i giudici, però appunto avrebbe sin qui legittimamente, plausibilmente vincolato il sindaco, che dopo tre pronunce, a partire da quelle del suo tribunale, sceglie finalmente di fare il passo in più che gli avevamo chiesto. E certo che gli diamo una mano come consiglio comunale, mi pare doveroso per un consiglio che ha stigmatizzato da subito gli effetti del decreto sicurezza, e questo non ha riguardato soltanto Coalizione Civica ma anche altri gruppi. Diciamo che adesso alle chiacchiere si somma il distintivo e soprattutto si aggiunge la soluzione di un problema concreto, perché gli operatori ci avevano segnalato a più riprese che la mancata iscrizione anagrafica stava comportando una serie di problemi concreti, perché come la giudice riconosce in sentenza, l'iscrizione rende possibile, o se non altro più agevole, la fruizione di alcuni diritti fondamentali, dal campo della sanità a quello dell'istruzione, ma insomma sono cose che avete detto in radio tante volte, per carità è bene ribadirle, ma insomma sono certamente preziose.